Speciale, la politica nel tunnel. Buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta, ben trovati con il nostro approfondimento politico. Grillo torna sull'elezione dei presidenti di Camera e Senato e parla di trappola ai danni del Movimento 5 Stelle. Berlusconi vede nel prossimo futuro un governo Bersani-Grillo, quanto al Quirinale attacca se uomo di sinistra al Colle sarà battaglia ovunque. Il Partito Democratico rifiuta la proposta Alfano, no ad intese sul governo in cambio del Quirinale. Tanti dunque gli argomenti di cui parlare, partiamo dalla cosiddetta spaccatura all'interno del 5 Stelle. Grillo punta il dito sui senatori che sabato, in occasione dell'elezione alla presidenza di Grasso, non sono stati organici alle scelte del gruppo. Ci colleghiamo con Alessandra Schepisi. Allora, Alessandra, secondo Grillo in gioco c'è il rispetto delle regole, non nulla di più. Sì, Vincenzo, così perché Beppe Grillo, dopo aver intimato sabato sera la dimissione dei senatori dissidenti, questa mattina invece sul suo blog sembra quasi assolverli. Nel post infatti il leader non parla di espulsioni o scomuniche, ma di una trappola tesa dal PDL e PD-L in cui qualcuno anche in buona fede sarebbe caduto. I giochi, scrive il politico genovese, erano già fatti per mettere in difficoltà il Movimento 5 Stelle, perché tra Schifani e Grasso la scelta era impossibile, si trattava di decidere, scrive Grillo, tra la peste bubonica e un forte raffreddore, ma i due gemelli dell'inciuccio sapevano che Schifani non sarebbe stato eletto. Insomma, un complotto della vecchia politica che secondo Grillo può nuovamente ripetersi. Allora attenzione, perché in futuro, dice il politico genovese, non saranno fatti sconti. Dunque l'espulsione per il momento non sembra l'obiettivo di Grillo, anche perché potrebbe avere conseguenze devastanti. In questo momento l'obiettivo è soprattutto mettere in guardia i neoeletti e anche tentare di eliminare sospetti e timori che circolano insistentemente nelle ultime ore. C'è infatti chi accusa i dissidenti di non aver giocato in maniera limpida e il timore soprattutto di ciò che potrebbe accadere poi in futuro con il voto di fiducia. E dunque tante sono le critiche a Grillo che sono state fatte nel suo blog nelle ultime ore, tra l'altro alcuni commenti sarebbero anche spariti dal blog. Di certo le posizioni all'interno del Movimento 5 Stelle sono sfumate, i senatori dissidenti rivendicano la libertà di coscienza di fronte a una scelta che giudicavano insostenibile, cioè quella di Renato Schifani, altri compagni li difendono, e così come Marco Scibona, senatore del Movimento 5 Stelle. Allora possiamo sentire l'intervista a Scibona. Non c'è nessun problema, siamo uniti più che mai. Ma c'è stata una spaccatura però. No, assolutamente, non è una spaccatura, siamo un bel gruppo, abbiamo dimostrato di avere ognuno una propria testa, abbiamo fatto delle valutazioni e quello che è uscito magari un risultato non unitario per certi versi, ma fermo e deciso su altre, quindi non vedo... Però insomma Grillo ha detto che alcune persone si dovrebbero dimettere perché era stato deciso di non votare Grasso. Ma che uno dissenta o sia d'accordo con quello che è successo ci sta, ci mancherebbe, tanto quanto altre persone. Ci sono stati molti attivisti che hanno apprezzato, molti che non hanno apprezzato, fatto sta che il risultato comunque fondamentale era quello di non essere parte integrante di queste decisioni, e non lo siamo stati. Quindi, scusi, cioè, secondo lei questi 13 senatori hanno fatto bene a votare secondo coscienza? Nel senso che non me la sento di accusarle, perché hanno avuto delle ragioni che non sono condannabili. Quindi non andrebbero espulsi secondo lei? No, secondo me no, ma non penso che vengano espulsi. Quindi non è stato, come dire, disatteso un contratto, perché Grillo ha scritto è stato disatteso un contratto, la coerenza e il rispetto verso gli elettori che imponeva, come dire, una certa unitarietà, no? Di decisioni. Sicuramente, ovviamente avrei anch'io preferito un qualcosa di unitario, certamente. Però anche le loro ragioni effettivamente non possono lasciarmi così neutro. Quindi insomma secondo lei il Movimento non deve decidere come un blocco unico, c'è spazio anche alla libertà di coscienza, questo dice? Libertà di coscienza noi dovremmo utilizzarla solo e solamente per questioni estranee non discusse nel programma. Però ecco, questo non potrebbe avvenire per esempio per la fiducia, se uno secondo coscienza, ecco, la fiducia è un'altra cosa, no? È tutta un'altra cosa ed è assolutamente un altro discorso. Queste dunque le parole di Marco Scibona, intervistato da Alessandra Schepisi, che ringrazio per il collegamento. Il Movimento 5 Stelle dunque, al di là delle divisioni interne, resta ago della bilancia per la formazione di un futuro governo. Berlusconi per esempio teme proprio un esecutivo Bersani con Grillini e Monti, ma è il Quirinale che preoccupa il leader del Popolo della Libertà. Se andrà alla sinistra sarà battaglia in Parlamento e nelle piazze, dice Berlusconi. Allora approfondiamo questo aspetto, sentiamo perché dal deputato Giorgio Lainati del PDL il Quirinale spetterebbe invece ad un moderato. I due presidenti di Camera e Senato non rappresentano una scelta politica nuova, ma esattamente la stessa cosa del 2006, quando il centrosinistra vinse per 24.000 voti e si prese tutto. Si prese il Senato, la Camera, Palazzo Chigi e il Quirinale. Alla faccia di quello che aveva detto Bersani in campagna elettorale, non prenderemo tutto ma divideremo con gli altri, si è immediatamente smentito e ha scelto peraltro in particolare qui alla Camera una rappresentante della sinistra radicale vendoliana che si è contraddistinta negli ultimi 5 anni per una continua avversione nei confronti del governo Berlusconi, accusato in tutte le sedi internazionali di essere un governo reazionario e molto cattivo sulla questione dell'immigrazione. Quindi una scelta chiaramente contro e non a favore di qualcosa. E questa situazione, qualora si dovesse ripetere anche per il Quirinale, per noi sarebbe veramente allucinante, perché voglio ricordare ai radioascoltatori che il PD insieme a Vendola ha preso il 29,5%, noi il 29,3%, quindi sarebbe stato molto più giusto, intelligente e manifestazione di equilibrio assegnare una delle due presidenze alla nostra parte politica. E queste dunque le parole di Giorgio Lainati. A Lainati replica dal Partito Democratico l'onorevole Pierpaolo Baretta, che esclude che con il PDL ci possa essere un'intesa che coinvolga governo e Quirinale. Sentiamo. Viste le reazioni del PDL sia in aula sia nei commenti successivi, parlare di accordo con loro mi pare del tutto ridicolo e ovviamente non ha assolutamente senso. A me pare che con le soluzioni prospettate l'altro ieri e votate dal Parlamento abbiamo fatto un salto di qualità sia nel rapporto tra palazzo, istituzioni, politica e cittadini, e sia nella dimostrazione che le soluzioni sono possibili indipendentemente da alleanze eventualmente spurie. Noi abbiamo una strada da percorrere, che è quella di assicurare il più presto possibile un governo al Paese. Peraltro gli elettori questo vogliono oggi. La reazione di Grillo di queste ore le sembra una reazione di chi sta perdendo un po' il polso sui propri parlamentari? Beh, più che altro è interessante la reazione dei parlamentari nei confronti di Grillo, e cioè che stanno dimostrando, come è giusto che sia, che quando si è qui si guarda anche ai problemi veri, si guarda a ciò che è l'interesse principale per il Paese, e quindi mi sembra che la reazione di Grillo sia una reazione, diciamo, scomposta, segno di una complicazione che non aveva previsto. Bersani ha detto una cosa molto interessante nei giorni scorsi, ha detto: hanno scelto la via parlamentare, potevano non sceglierla, ogni strada ha delle sue conseguenze, in Parlamento si vive la vita parlamentare alla luce del sole, trasparente ma con le regole proprie. Qui si vota e ogni volta che si vota si decide in coscienza da che parte stare. Queste dunque le parole di Baretta, la risposta quindi del Partito Democratico al Popolo della Libertà. Domani, ricordiamo ai nostri ascoltatori, è il termine ultimo per la formazione dei gruppi parlamentari qui alla Camera. I capigruppo del PDL saranno Brunetta alla Camera e Schifani al Senato. Per il Partito Democratico, Franceschini alla Camera, Finocchiaro al Senato. Per la politica nel tunnel per oggi è tutto. Un saluto da Vincenzo Miglietta.